versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:34 primi 40 secondi, sono in diretta dagli studi qui di Milano di Radio 24 e la versione di Oscar @radio24.it, l'indirizzo 800 24 00 24 per telefonare. L'argomento di oggi: come ieri ho giustamente prestato ascolto a molti di voi che dicevano sì, però inizia a fare anche trasmissioni in cui dai la voce a chi sull'euro ha opinioni critiche. Abbiamo cominciato ieri con i 5 Stelle e vi confermo, sentiremo la Lega, sentiremo professori che hanno le idee critiche più varie e diverse sull'argomento per consentirvi di esprimere le vostre opinioni. Allo stesso modo oggi, e anche qui molti ascoltatori lo hanno chiesto, poiché se mi ascoltate sapete che insisto molto a favore del lavoro autonomo, delle partite IVA, degli artigiani, dei commercianti e così via, molti di voi però mi hanno detto sì, ma noi lavoratori dipendenti e pensionati, o magari anche non lavoratori dipendenti e pensionati, magari anche autonomi, pensiamo che non è tutto bianco e nero, perché continuano a esserci nella nostra esperienza quotidiana molti autonomi che fanno i furbi, troppi anzi autonomi che fanno i furbi. Sì, difendili pure tu, caro Oscar, però la realtà quotidiana a noi dice che saranno anche loro vittime della crisi, con meno lavoro e quindi meno redditi, però troppi furbi per i nostri gusti, mentre giustamente chi ha la ritenuta d'acconto, il sostituto d'imposta e quindi le tasse le paga alla fonte, dice ovviamente noi siamo in una condizione diversa. Allora mi sono detto, prendiamo una di queste lettere, io la leggo, però vi chiedo la vostra opinione telefonando all'800 24 00 24, la vostra impressione è che in questi anni i tra virgolette furbi tra gli autonomi sono aumentati, sono diminuiti, che cosa vi insegna la vostra esperienza quotidiana, però l'esperienza, non l'opinione in generale, perché l'opinione in generale so che alcuni hanno un'opinione a prescindere, come diceva Totò. Il problema è se nella vostra vita quotidiana, richiedendo servizi eccetera eccetera, incontrate oggi come prima, oppure oggi più di prima, esperienze diffuse che vi fanno ritenere che ci sia evasione, cioè lavori fatti senza fattura e così via. Attenzione però, se mi dite gli scontrini fiscali, sapete già qual è la risposta. Gli scontrini fiscali non attestano regolarità fiscale, perché quella si fa con gli studi di settore. Sono ancora obbligatori, per quanto la stessa capa dell'Agenzia delle Entrate abbia dichiarato che si procederà alla loro soppressione. Quando furono introdotti ai tempi di Visentini, con i primi registratori di cassa, allora sì che erano gli indicatori dell'imposizione sul reddito. Oggi sono un obbligo da adempiere, ma in realtà non è in base agli scontrini fiscali che poi si pagano le imposte e si calcola il presuntivo con lo studio di settore. Detto questo, però, mi interessa molto perché giustamente io non voglio vivere con la fetta di prosciutto sugli occhi come nessuno di voi, e quindi questo fenomeno tentiamo di inquadrarlo dando voce a chi però vuole parlare, descrivendolo e non solo ascoltando me che dico sì, però guardate, continuiamo a non avere attenzione per le partite IVA e freelance e così via. Tra l'altro, ieri sera in esame di legge di stabilità, prima di chiuderla, hanno respinto l'emendamento di cui avevamo parlato con ACTA qualche giorno fa, vi ricordate, e quindi hanno respinto l'emendamento in cui si chiedeva lo stop dell'aumento contributivo alla gestione speciale dell'INPS, quindi per i poveri freelance si aggraverà quello che pagano più dei lavoratori dipendenti senza avere il welfare e i diritti. Ma detto questo, io adesso inizio a leggervi questa lettera che mi ha molto colpito anche per come è scritta. Ci ha mandato un ascoltatore di Palermo, si chiama Lorenzo Leone, e ci racconta appunto la sua esperienza, che come ascolterete è un'esperienza che dice che insomma l'evasione c'è, e come se c'è. Allora, sono Lorenzo Leone da Palermo, come ricorderà mi ha consentito di intervenire in una trasmissione dedicata all'invadenza eccessiva della burocrazia regionale e comunale in Sicilia. Volevo raccontarle cosa mi è successo appena ieri. Avendo avuto un guasto al tubo dell'acqua che va dal contatore alla mia abitazione e che ha determinato consumi in eccesso, l'acquedotto comunale mi ha inviato una bolletta particolarmente pesante che contabilizza anche le perdite. Mi sono recato presso i competenti uffici e mi è stato risposto che era possibile defalcare parte del costo atteso perché si trattava di consumi dovuti a perdite. Per cui, ad esempio, non si doveva pagare la quota di depurazione fognaria perché l'acqua, essendo andata persa, non era arrivata in fognatura. Per accedere a questo beneficio, continua Lorenzo nella sua lettera, bisogna istruire una pratica che tra l'altro prevede la fattura di un idraulico per la riparazione effettuata, unitamente alla dichiarazione dell'artigiano di iscrizione alla Camera di Commercio e all'Ufficio delle Entrate. Pertanto, continua Lorenzo, ho chiamato l'idraulico di fiducia, abito a Sferracavallo, la borgata marinara nota per la ristorazione tutto pesce, eccetera, eccetera. Il tizio mi risponde che poteva certamente fare il lavoro, quantificandolo in pochi euro, ma ha aggiunto che non poteva fatturare, perché a causa delle eccessive tasse, contributi previdenziali e così via, era stato costretto un anno fa a chiudere ufficialmente l'attività. Allora a quel punto, dice Lorenzo, ho provato con un altro, sempre di Sferracavallo, ma ho ottenuto la stessa risposta. Insomma, ne ho consultati ben 5 e a Sferracavallo non ho trovato un idraulico in regola. Anzi, mi hanno aggiunto che non pagando più tasse e contributi, in quel modo hanno potuto mantenere bassi i prezzi e il loro lavoro è persino aumentato. D'altro canto, uno di loro mi ha anche aggiunto che, pur pagando i contributi previdenziali per i prossimi 15 anni, secondo i calcoli del suo ex ragioniere, percepirebbe una pensione inferiore a quella sociale. A questo punto, dice Lorenzo, approssimandosi alla fine, le chiedo, essendo così dilagante il fenomeno per cui sulla iniquità delle tasse si spinge chi produce effettivamente a chiudere e a lavorare tranquillamente in nero e a non pagarle, ma continuando così, chi pagherà gli stipendi, quelli ufficiali che vanno pagati coi contributi, e chi verserà i contributi senza i quali le pensioni non si pagano ai pensionati già oggi in pensione? Ho come l'impressione, conclude Lorenzo, che siamo arrivati a un punto di implosione. Mi piacerebbe effettivamente che lei affrontasse da questo punto di vista l'argomento in trasmissione, perché solo a ripetere che anche gli autonomi sono vittime della crisi io non discuto, dice Lorenzo, ma se l'effetto è quello di spingerli ulteriormente ad accrescere in nero, allora le conseguenze inevitabilmente ci sono per noi tutti. Ecco, su questo aspetto, che non è quindi di principio ma di una esperienza e con una conseguenza che io condivido, perché è ovvio che se qui il nero, da crisi o non da crisi, il nero significa meno entrate, e soprattutto già l'equilibrio del sistema pensionistico sta in piedi solo grazie a più di 50 miliardi l'anno che lo Stato deve attingere dalla fiscalità generale, perché i contributi versati da chi lavora oggi, siano in pochi a lavorare oggi, lavora ufficialmente un italiano su 3, in Germania lavorano 2 tedeschi su 3, già oggi i contributi raccolti non bastano a pagare le pensioni in essere, perché il sistema, ricordatevelo bene, resta a ripartizione. Le pensioni in essere si pagano con i contributi raccolti nello stesso periodo da chi lavora. Allora, queste considerazioni di Lorenzo sono considerazioni giuste. Il problema è capire, nella vostra esperienza, se il fenomeno di Lorenzo, che la periferia di Palermo non ne ha trovato uno in regola, è lo stesso fenomeno con cui avete voi a che fare. Iniziamo con le prime telefonate, sentiamo Giulio da Fermo. Prego Giulio. Pronto, buonasera. Guardi, io le vorrei dire una cosa. Io sono medico, chirurgo, odontoiatra, no? Trovo profondamente ingiusto che noi paghiamo le stesse aliquote dei nostri colleghi che sono dipendenti. Io per esempio tra il 2002 e il 2003 ho avuto dei grossi traumi, per 6 mesi ho faticato tantissimo a lavorare, se fossi stato un dipendente sarei stato tranquillamente a casa ben pagato. Sì. Noi autonomi ci ammaliamo 1/10 dei dipendenti. È vero. Ecco, queste cose qua, secondo me, io sono contro l'evasione, metteteci veramente tutti allo stesso livello, no? Allora se quando va male non mi dai niente, non posso pagare la stessa aliquota che paga quello che si può ammalare. Giulio, su questo io la penso come lei, ecco. Ho appena detto che in legge di stabilità, non per tutti gli autonomi, ma per i più deboli tra gli autonomi, stiamo parlando delle partite IVA, dei freelance iscritti alla gestione speciale dell'INPS, anche per quello la legge di stabilità ha respinto l'ulteriore aumento previsto contributivo, cioè abbiamo dedicato una puntata a questo. Però Giulio, le posso fare una domanda? Certo. Nella sua esperienza quotidiana, in questi anni il fenomeno di chi non paga tutto quello che deve è aumentato per effetto della crisi, non è aumentato ed è sopravvalutato? Lei come la pensa? Secondo me è diminuito. È diminuito. È diminuito molto. Infatti se vediamo, guardi, oggi vedevo proprio i dati ufficiali dell'EPAB, del nostro ente di previdenza, no? Che da quello lì uno risale. Allora, in questi tre anni noi sappiamo che il lavoro è diminuito e le entrate dell'EPAM sono aumentate. Allora Giulio, questo aspetto lei ha risposto secondo me in una maniera abbastanza illuminante, perché se andiamo a vedere l'andamento degli occupati rispetto alle entrate contributive, i dati dicono che in questi anni l'effetto del potenziamento dei controlli, il maggior numero di ispettori e così via, testimonierebbe una diminuzione del fenomeno rispetto a prima, non un aumento. Naturalmente questo dato non è affatto detto che dia la rappresentazione complessiva del fenomeno, però dalle entrate si direbbe che il potenziamento assoluto degli strumenti a favore dell'Agenzia delle Entrate e per la parte contributiva dell'INPS testimoni un recupero di base imponibile, non un'estensione del fenomeno dell'evasione. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.48. La vostra opinione diretta sulla base di una lettera di un ascoltatore che abbiamo letto, Lorenzo Leone da Palermo, che dice: io non ho trovato un idraulico a Sferragallo fuori Palermo che fosse in regola per un lavoretto che dovevo fare e che mi serve, però mi serve se ho offerto con tutti i sacri crismi del rispetto della legge, perché per pagare meno e defalcare la quota che devo dalla mia bolletta perché l'acquedotto perde, ho bisogno di poter mettere i documenti per cui ho fatto fare il lavoro di riparazione. Una raffica di sms, ne leggo alcuni. Marco per esempio dice: da Ferrara gli autonomi sono cambiati, sono evoluti e l'espansione del fenomeno per effetto della crisi si chiama istinto di sopravvivenza. Oppure Pietro, non voglio dire da dove, vi spiego perché: esperienza da un anno senza lavoro, agente di commercio, 53 anni, vivo di lavoretti in nero, non chiedo niente allo Stato, ho sempre onorato le tasse, purtroppo però devo vivere. Un abbraccio a Piero. Sai che cosa rischi, però? Ecco, questo è il problema. Marco da Firenze: caro Oscar, stamattina ero dal dentista. Mentre si parlava, mi ha detto che doveva pagare il carrozziere per un incidente che aveva avuto per un importo di 3.000 euro. Che il carrozziere li voleva in contanti. Il resto giudicalo tu. Poi, tanti anche che dicono: però attenzione che lo Stato ci divide, questa è la mia tesi, ci mette l'un contro l'altro per poi prendere dove può. Detto questo, Ada: vivo tra la provincia di Milano e quella di Bergamo, vedo pagare in nero dal medico all'estetista, dall'idraulico alla cameriera. Simone: ciao, per mia esperienza trovo molti che non fanno ricevute, partendo dai medici fino agli elettricisti, idraulici, lo stesso meccanico, ricevute, fatture zero. Sentiamo Paolo da Genova. Paolo, prego. Buonasera, senta, io volevo dire questo: io sono un quadro triennale, guadagno più o meno 80.000 euro lordi l'anno, pago la mia bella fetta di tasse, mi compro l'auto, me la pago completamente, non ho modo di stornare IVA, di fare nulla di questo tipo, e poi mi trovo con notizie del tipo che il guadagno medio di una gioielleria è 28.000 euro l'anno, il reddito di un gioielliere. Ora, immagino che il capitale immobilizzato in una gioielleria sia tale che un reddito da 28.000 euro l'anno non giustifichi l'investimento di capitale. e questo c'è in buona parte delle varie tipologie di lavoratori autonomi dai risultati statistici che abbiamo. Posso risponderti quindi, subito, perché questo è un classico, certo, che ogni anno ripetiamo. Paolo, allora, quel tipo di dato che l'Agenzia delle Entrate dà due volte l'anno sul reddito medio delle figure professionali autonome, gioiellieri per esempio, è dato con una, secondo me, astuta volontà di provocare l'effetto che provoca in te. Perché? Perché la gioielleria, che nel 99% dei casi, tranne che le grandi catene, è un'azienda familiare, ha un reddito d'impresa che consente lo splitting familiare. Consente lo splitting. Quindi, mentre vi danno la dichiarazione media del gioielliere capofamiglia, non vi allegano come è stato splittato, cioè diviso il reddito tra i componenti della famiglia. Primo, e questo fa la differenza. Secondo, oltre alla componente di reddito generato dalla gioielleria che va nel reddito personale, ci sono le imposte pagate sulla gioielleria in quanto tale, per, a seconda di come è organizzata come società, e anche questo lo Stato non ve li dà. Allora, attenzione, che su quel dato è la dimostrazione di come lo Stato ci divide. Posso dirvi, siccome ogni anno chiedo che vengano riformulati i criteri per quella statistica, e invece l'Agenzia delle Entrate non ci sente. Non ci sente perché sa perfettamente che l'effetto che provoca è esattamente quello che provoca a te, Paolo. Ecco, quindi in quel caso i criteri dovrebbero essere diversi, ci dovrebbero dare il totale del reddito generato dalla gioielleria e il totale delle imposte pagate dalla gioielleria, se è una società di qualunque tipo, e dai diversi componenti della famiglia su cui il reddito generato dalla gioielleria si splitta, perché è possibile secondo legge. Invece non ve lo dicono. Se non è dato così quel dato, non consente un paragone, tranne che sia volto a far incazzare giustamente chi paga tutte le tasse con il sostituto d'imposta. Sentiamo Cristiano da Bologna. Prego, Cristiano. Ciao Oscar. Pronto? Eccoci qua, vai. No, io telefonavo, volevo portare il mio caso. Io 2-3 anni fa fatturavo circa, sono un libero professionista, agente di commercio. E innanzitutto io rappresento delle aziende, di conseguenza tutte le fatture che io devo emettermi vengono date delle provvisioni direttamente dall'azienda. Di conseguenza io evasione zero. Faccio fatica a farla. Le dico solo una cosa, io quando fatturavo 110-120 mila euro di provvisione mi arrivava, per esempio, che mi è arrivato pochi giorni fa, degli acconti. Che anche lì ci sarebbe da parlare, a noi ci fanno pagare la percentuale in più se paghiamo rateizzato, invece certo, sull'acconto, che è un ipotetico acconto che io non so neanche se campo fino a domani, non mi danno un cazzo, scusatemi. No, è questo, prego. Vabbè. È anche forse anticostituzionale. Comunque al di fuori di questo, mi arriva l'acconto delle tasse di quest'anno, quando fatturavo 120.000 mi arrivava 11.000, adesso che ne fatturo la metà mi arriva 9-10.000, ma voglio dire, ma com'è possibile? Non fermarti lì, perché io vi dico, i dati sono usciti su Panorama qualche settimana fa di una ricerca fatta sulle 5.800 imprese di Asso Lombarda, quindi stiamo parlando di signore imprese, non di piccole autonome e così via. Il 9% di 5.800 paga più del 100% del reddito per impresa per via degli acconti di cui parla Cristiano. Più del 100%, signori, significa che c'è un fisco che spinge le imprese a dover intaccare il patrimonio per andare avanti, oppure a mollare la presa, non so se allora, è chiaro. Io non spendo niente, mi entra 5 e spendo 7, esatto, senza comprarmi neanche un paio di braghe, ma stiamo scherzando? Un abbraccio anche a Cristiano, sentiamo Alessandro D'Alecco, prego Alessandro. Pronto? Eccoci, vada. Allora, io volevo portare un punto di vista forse un po' diverso, la mia situazione, sono un piccolissimo distributore di ditta individuale, acquisto dei prodotti all'estero, li vendo ai negozi in Italia, purtroppo io faccio fatture molto piccole, 3, 4, 500 euro l'una, quando un mio cliente non mi paga una fattura, io non posso fare niente, di niente, perché mi costa di più cercare di rivalermi. Negli anni, dal 2006 a oggi, ho accumulato svariate migliaia di euro di crediti che non riesco a riscuotere, il che tra l'altro mi ha anche bloccato a volte dall'acquistare all'estero. Succede che io ho 3 cartelle con Equitalia adesso, e sulla carta non solo ho avuto questi soldi, ma ci ho pagato IVA, tasse e tutto. Ah, guardi, questa è una porcata. Io ho vissuto tanti anni in Inghilterra. E naturalmente non avveniva. Fine anno stornavo. Bravo Alessandro. Questo capita anche a me. C'ho dei committenti, io sono un autonomo, che lavoro subito, le tasse subito, e poi passano gli anni. Ecco, questa è un'altra cosa inaccettabile. Continuate su Radio 24, appuntamento come domani. la versione di Oscar.